Con Marco Pasquinucci, direttore artistico della settima edizione di Nuove Terre, le arti della scena, in cinque comuni tra La Spezia e Genova dal 24 luglio al 30 agosto 2019. Marco, ben trovato. Grazie, grazie Ci racconti? a te. Sì, vi racconto un po' quello che succede. C'è un uomo in Liguria, quando perde sul mare, inizia tutto una raffica di affari, ormai la settima edizione, che ha come soggetto la gente contemporanea. Ma gli altri portando in mezzo alla gente, portando in spiaggia, portando in tutte le nazioni, con grandi nomi, riferimento ovviamente ai due premi Hugo, Cosentino, Sottermani dell'anno scorso, abbiamo una vittoria della costa, abbiamo aspettato per un circo contemporaneo d'Anza, in un stato che vuole insomma riavvicinare le persone al teatro, divertire, far pensare, far provare emozioni. Quindi ecco, questo è il senso del nostro progetto Nuove Terre. Nel complesso quanti lavori? Sono 12 appuntamenti e cominciamo con il Comune di Moneglia, con Shakespeareology, l'ultimo lavoro di Sotterraneo che ha debuttato proprio 2 giorni fa al Girovan Festival e insomma, quindi è appunto fresco fresco il debutto regionale. E niente, sono molto, molto contenti, molto, molto ansiosi di vederlo. Insieme ci sono appunto anche un sacco di iniziative collaterali. C'è una cosa molto carina che noi facciamo che si chiama Racconta Festival, che è un progetto fatto insieme a dei ragazzi delle superiori, un progetto di alternanza scuola-lavoro, dove appunto andiamo al mattino e loro invadono le spiagge e i luoghi appunto dove ci sono le persone per raccontare quello che succederà la sera, proprio una sorta di piccolo storytelling che loro hanno preparato. Questo proprio così per dare l'idea appunto dello spirito del festival, che è quello appunto di condividere, creare comunità, insomma, stare insieme attraverso il teatro. Per quanto riguarda gli spettacoli, su cosa si è indirizzata la scelta? La prima scelta è proprio l'idea, appunto, il lavoro insieme alle amministrazioni dei comuni, perché questa è un po' anche la peculiarità del festival, si lavora insieme agli amministratori che ci raccontano un po' quelle che sono le caratteristiche del territorio. Oramai se ne abbiamo parlato anche conoscere il pubblico, che è un pubblico locale, ma ci sono anche tanti turisti, e quindi appunto l'idea di quest'anno è stata sicuramente la qualità dei contenuti, ma anche appunto per chi vuole leggerci appunto un approccio sui classici. Abbiamo Shakespeareology, abbiamo appunto Molière, abbiamo un altro Shakespeare che è appunto un re di Irvana, Bonassola, abbiamo appunto un Edipo che è la prima produzione appunto di Michele Sinisi, che sarà Framura, quindi anche, come dire, una sorta di classici che arrivano al mare, per dire, da volare, chiaramente quindi in versione moderna, che poi abbiamo potuto terminare, dopo dimentichiamo di dire appunto che è del 1900, la compagnia appunto di Torino, molto, sono giovani, molto bravi, soprattutto sono anche tanti, è una ventata di energia. Come sono suddivisi gli spettacoli nelle giornate e nei vari comuni? Naturalmente appunto si viaggia, non c'è un ordine preciso, cioè ci si sposta ogni volta, si parte appunto domani alle 24, come dicevo, da Moneglia, poi ci si aspetta per spostarsi poi a Bonassola il 29, per poi andare a Framura l'1 con uno spettacolo appunto di Gianni che è appunto Gianni, già della terra provato della nostra compagnia. Quindi appunto l'idea è quella di spostare il pubblico, ci si sposta ogni volta e avete la possibilità appunto di vedere con calma appunto il calendario sul nostro sito e sui nostri social, che vi dico che è festival9terre.officinecapace.it, oppure nella pagina Facebook Festival Nuove Terre, ci sono appunto tutti gli appuntamenti. Quindi l'idea è proprio quella di muoversi organicamente su questi territori con una rassegna diffusa e spostare soprattutto il pubblico. Una cosa importante è che ci teniamo e c'è una collaborazione molto importante appunto per quanto riguarda lo spostamento del pubblico, perché in questo luogo che si chiama Framura, che è un paesino molto bello, dove facciamo spettacolo però in cima al colle, da un picco sul mare, dalla stazione appunto c'è una navetta gratuita che porta il pubblico fin su, perché insomma si può anche camminare, ma è molto lungo. E poi appunto gli spettacoli sono tutti con l'orario di spettacolo è tutto calcolato rispetto agli orari del treno, quindi le persone possono spostarsi facilmente e anche venire sia da Genova sia da Spezia. Un'altra cosa interessante è che alcune di queste terre sono collegate dalla vecchia via ferroviaria, che è diventata appunto una delle vie pedonali, parlo per esempio di Bonassola e anche di Framura, e quindi appunto si può andare a teatro con bicicletta, abbiamo una convenzione con bici, con noleggi bici, quindi c'è tutto una cosa per spostare prendendo la bici e prendendo a vedere il spettacolo. Saranno tutti all'aperto o ci saranno anche performance in spazi chiusi? Sono tutti prevalentemente all'aperto, quindi incrociamo le dita per chi non più va, perché chiaramente sono paesi molto piccoli e alcuni di loro non hanno proprio appunto delle sale, neanche delle sale polivalenti per poter andare a fare lo spettacolo. L'unico spettacolo che è in uno spazio chiuso è il tipo di Michele Fiumini, che è il 23 di agosto, ed è fatto appunto in un posto veramente eccezionale, è un oratorio, una frangura nella località Costa, una località molto in alto, anche quello a picco sul mare, e il pubblico è uno spettacolo con pubblico limitato, entrerà all'interno di questo oratorio storico e assisterà appunto allo sviluppo dello spettacolo, un spettacolo molto particolare. Quindi appunto veramente incrociamo le dita che non piova. Settima edizione di Nuove Terre, le arti della scena in 5 comuni tra La Spezia e Genova, dal 24 luglio al 30 agosto 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Marco Pasquinucci. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie, grazie, viva tutto.